Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Tragedia aerea in Libia, più di 100 morti su un volo in atterraggio a Tripoli, salva una bimba, molti gli stranieri a bordo. Dati positivi sulla crescita italiana nel primo trimestre, intanto la Spagna vara il suo piano di austerity. Genova spara contro due guardie provinciali e le uccide, poi si toglie la vita. Ciclismo, il Giro arriva in Italia, si parte dal Piemonte con la crono a squadre. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque la cronaca dell'incidente aereo avvenuto in Libia. Pochi istanti e oltre 100 persone vengono uccise, travolte dallo schianto durante l'atterraggio nell'aeroporto di Tripoli di un Airbus 330 partito dal Sudafrica. 104 persone a bordo, 93 passeggeri, 11 componenti dell'equipaggio. Un unico sopravvissuto, una bambina olandese di 8 anni che è stata portata in un ospedale vicino a Tripoli. Sull'aereo viaggiavano 22 libici fra passeggeri e membri dell'equipaggio, mentre le altre persone erano di diverse nazionalità. L'unità di crisi del Ministero degli Esteri italiano sta verificando la possibile presenza a bordo di italiani. Le autorità locali, che stanno indagando sulle cause dello schianto, ritengono sia stato un guasto tecnico. Si esclude dunque la pista terroristica e anche l'ipotesi che ci sia una relazione con la nube provocata dal vulcano islandese che ieri ha attraversato i cieli del Marocco e che oggi sta passando sull'Algeria. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. La cronaca italiana è notizia di poco fa che la procura ha chiesto la scarcerazione di Stefano Gugliotta, arrestato e, a quanto dimostrerebbe un video amatoriale, picchiato da agenti di polizia che lo scorso 5 maggio presidiavano le vie adiacenti allo stadio olimpico dopo la finale di Coppa Italia Roma-Inter. È stato iscritto nel registro degli indagati l'agente che gli ha sferrato un pugno con l'accusa di lesioni volontarie aggravate. E nel sondaggio di oggi vi chiedevamo se secondo voi le forze dell'ordine sono preparate a gestire situazioni di ordine pubblico. Hanno vinto i no con il 63% per il senatore del PDL Filippo Saltamartini, un passato di 30 anni di servizio in polizia. La vicenda Gugliotta mostra la carenza di addestramento da parte degli agenti preposti all'ordine pubblico. Questi episodi sono episodi che riguardano comunque fatti assolutamente marginali, seppur non giustificati, nel senso che chiunque ha visto il filmato rimane esterrefatto. Questo è il fatto, secondo me, diciamo così, che mette in luce una carenza di addestramento. O per tanti anni, io che ho svolto servizi di ordine pubblico, posso affermare che quando la massa muove con atti di violenza, come succede negli stadi o nelle manifestazioni politiche, è chiaro che dietro quella divisa c'è un uomo, molto spesso la paura la fa da padrone. Mario Staderini, segretario dei radicali, è più duro, parla di regole dell'ordine pubblico rimaste ferme agli anni 70. L'Italia non è uno stato di diritto, purtroppo, e queste situazioni sono semplicemente un epifenomeno. Innanzitutto chiarezza, indipendentemente da quello che aveva fatto prima o meno Stefano Gugliotta, a mio avviso nulla, l'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine è sbagliato. E poi, secondo punto, il politico quello che deve fare è operare affinché i cittadini non abbiano sfiducia nelle forze dell'ordine, come invece a volte per i fatti che accadono si hanno. E allora bisogna riconoscerlo, gli agenti troppo spesso sono lasciati senza formazione, senza mezzi, senza adeguate direttive e con una gestione dell'ordine pubblico che ormai in Italia è ferma agli anni 70. Siamo all'economia, iniziando dai dati sul prodotto interno lordo italiano che sono stati diffusi questa mattina. Ce li racconta in diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Importanti segnali di inversione di tendenza per l'economia del nostro paese. Nel primo trimestre di quest'anno, secondo l'Istat, il prodotto interno lordo è cresciuto infatti dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Si arriva ad un più 0,6 rispetto ad un anno fa. A spingere la ripresa, si legge nei documenti dell'Istituto Nazionale di Statistica, sono l'agricoltura, l'industria e i servizi. Qualora nei prossimi mesi non vi fossero variazioni, il 2010 si chiuderebbe con un più 0,6%, valore questo vicino alle previsioni di Banca Italia, più 0,7, ma inferiore alle stime del governo che aveva fissato la soglia dell'1% per l'anno in corso. Il nostro paese è comunque in terreno positivo, la congiuntura negativa sembra essere alle spalle, non è così per la Grecia, il cui PIL nel primo trimestre è sceso dello 0,8%, non rispetta sorprendentemente le previsioni la situazione invece del Portogallo, che apre l'anno con un PIL positivo pari a più 1%. E da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Intanto la Spagna annuncia il suo piano di austerità per il rientro del deficit. Che cosa prevede? Lo chiediamo a Michele Calcaterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid. Michele. prevede un taglio aggiuntivo delle spese di bilancio di 15 miliardi di euro negli anni 2010-2011 e quindi una riduzione aggiuntiva del disavanzo pubblico di un punto e mezzo in due anni. Tra le principali misure annunciate c'è la riduzione di un 5% del salario medio dei funzionari nel 2010 e un congelamento nel 2011, un congelamento dell'adeguamento delle pensioni per il 2011 e poi soprattutto un taglio per 6 miliardi negli investimenti in opere pubbliche e una riduzione di 600 milioni nel fondo di aiuto allo sviluppo economico. In aggiunta alle regioni verrà chiesto di fare dei sacrifici per 1,2 miliardi aggiuntivi. Con tutte queste misure si arriva ai 15 miliardi di cui abbiamo detto sopra ed è chiaro che comunque queste misure freneranno un poco la crescita dell'economia, si parla di uno 0,1% in meno l'anno prossimo. Queste misure verranno approvate definitivamente al Consiglio dei Ministri che è indetto per venerdì di questa settimana. Mentre entro fine mese verrà varata la riforma del mercato del lavoro e entro giugno quella delle casse di risparmio che, come noto, sono in grave difficoltà. Grazie dunque a Michele Calcaterra per questi aggiornamenti. Noi torniamo alla cronaca. È stato scoperto dai carabinieri di Piacenza un traffico internazionale di droga, oltre 30 le persone arrestate, ma è come la droga passava che è interessante. Sembravano comuni pellegrini, ospiti di un convento di suore a Milano. Erano invece trafficanti di droga, alle dipendenze di un'organizzazione smantellata dai carabinieri di Piacenza. Passavano inosservati, come spiega Rocco Papaleo, comandante del nucleo investigativo di Piacenza. I corrieri erano in accordo con il portinaio del dormitorio annesso al convento ed erano ospiti sotto la copertura di raggiungere il nostro paese per motivi spirituali, per pellegrinaggi religiosi. In realtà utilizzavano le camere poi per lo stoccaggio della cocaina e lo smistamento della stessa. 33 le persone arrestate, 40 i chili di droga sequestrati tra cocaina ed eroina per un mercato che aveva il suo fulcro a Milano, toccava l'Emilia Romagna e la Liguria, ma superava anche i confini nazionali. Alcuni clienti degli imprenditori di Piacenza erano riusciti a far costruire una base in Ghana per lo stoccaggio della droga, usando illecitamente dei fondi della FAO per la pesca. Nel gruppo poi alcuni affiliati di cosche calabresi tenevano i rapporti con i mercati colombiani. Roberto Bonaldi, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo al cinema, si apre oggi il Festival di Cannes. Prima sessione d'eccezione per il Festival del Cinema di Cannes che si inaugura questa sera e si concluderà il 23 maggio. Ridley Scott, regista di Robin Hood, film di apertura della kermesse francese, non potrà partecipare alla cerimonia per i postumi di un'operazione al ginocchio. Ci saranno però Russell Crowe e Cate Blanchett, protagonisti di questa nuova versione delle vicende dell'eroe di Sherwood, già da oggi nelle sale italiane. 19 sono i titoli in concorso, pellicole per lo più dai temi impegnati che toccano il conflitto iracheno, le guerre religiose, il terrorismo, ma anche vicende intime, come l'opera di Daniele Lucchetti, La nostra vita. Unico italiano in concorso, Lucchetti racconta un lutto mal elaborato e restituisce una triste ma vera immagine di parte del nostro paese. L'Italia sarà al centro dell'attenzione domani quando verrà proiettato fuori concorso Dracula di Sabina Guzzanti sulla ricostruzione del dopo terremoto in Abruzzo, pellicola per la quale il ministro della cultura Sandro Bondi ha deciso di declinare l'invito a partecipare al festival. Cristina Battocletti, GR24, Il Sole 24 Ore, Cannes. E continuiamo a parlare di cinema. Presentato in tutti i festival internazionali di horror, esce venerdì Shadow, il secondo film di Federico Zampaglione, leader dei Tiro Mancino. Sorpresa in rete, già un cult per gli appassionati del genere. Sentiamo Zampaglione intervistato da Marta Cagnola. Nell'ultimo periodo sono rimasto abbastanza basito per tutte le cose che sono successe intorno a questo film, perché sinceramente non erano previste, insomma, che così tanti paesi lo comprassero per uscire, molti escono in sala, in Germania, in Inghilterra, in America, uscirà direttamente in televisione. Poi spero che insomma ci sia un risultato decoroso anche sull'Italia, ma più che altro a questo punto perché mi piacerebbe che la cosa desse un po' una mano al cinema di genere a ritrovare finanziamenti, fondi, sicuramente perché l'industria si è concentrata su qualcosa di più televisivo. Ci sono molti talenti in Italia che meritano di esprimersi, io mi farò in qualche modo promotore anche di questo. Diciamolo però, Shadow non è un film sanguinolento. No, io più che sanguinolento ho voluto fare un film sia violento e anche angosciante, sì, inquietante direi. Non sono un grande amante dello splatter, mi piace proprio più un cinema horror, diciamo, fatto di atmosfere che ti entrano dentro, insomma, più che di sbudellamenti. In chiusura di questa prima parte parliamo di calcio. Fanno discutere in queste ore naturalmente le decisioni delle CT della nazionale Marcello Lippi, naturalmente come era prevedibile, eppure tra gli esclusi non ci sono solamente Totti e Del Piero, tanto per dirne due, ma ci sono tanti grandi campioni appunto che rimangono fuori da Sudafrica 2010. Sentiamo. Niente maglietta della nazionale, pantaloncini e scarpini, in vacanza o al più seduti davanti alla TV come milioni di semplici tifosi. Tanti i campioni esclusi da Sudafrica 2010. Se nell'Italia fa un certo effetto non vedere i nomi di Totti e Del Piero, i più illustri tra i reduci del trionfo di Berlino, anche il CT francese Domenech ha chiuso la porta a un grande senatore, Patrick Vieira, ex Juventus e Inter, ora al Manchester City, e a Karim Benzema, solo pochi mesi fa uno dei grandi colpi di mercato del Real Madrid. La Spagna rinuncia alla stella delle merengues, Raul, già assente del resto nel trionfale europeo 2008. E anche il Brasile di Dunga boccia i milanisti Pato e Ronaldinho, relegato tra le riserve, lo juventino Diego e, un po' a sorpresa, anche Adriano. E Maradona lascia a casa dall'Argentina gli interisti Zanetti e Cambiasso. Tra tanti esclusi eccellenti da consolare, in controtendenza il 35enne centrocampista inglese del Manchester United, Paul Scholes. He said no. Il perfetto stay with the family. Ho provato a parlarci per convocarlo, spiega il CT Fabio Capello, ma mi ha detto che preferisce passare l'estate con la famiglia. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13 e 17 minuti nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato della tragedia aerea in Libia, sono circa 100 le vittime e si è salvato un bambino, e poi abbiamo parlato dei dati sul prodotto interno lordo italiano, crescita di mezzo punto percentuale nel primo trimestre, mentre la Spagna ha varato il suo piano di austerity. Adesso torniamo sulla cronaca. Perché sembra essersi chiarita un po' meglio la dinamica dei fatti di quel che è avvenuto a Genova, dove due persone sono state uccise da un uomo che poi si è tolto la vita. Andrea Ferro. Sì, buongiorno da Genova. La procura nei giorni scorsi aveva disposto il sequestro dei cani di Renzo Castagnola, perché era scritto nell'ordinanza gli animali erano sottoposti a maltrattamenti, almeno secondo quanto riferito da alcune segnalazioni. Stamani due guardie zoofile si sono presentate a casa dell'uomo a Capreno, sulle alture di Sori, nel Levante genovese, per eseguire il provvedimento. Castagnola li ha attesi imbracciando un fucile. Appena i due si sono fatti avanti, l'uomo, un pensionato di 65 anni, ha fatto fuoco, uccidendoli all'istante. Si chiamavano Elvio Fichera, 72 anni, presidente dell'associazione Amici Animali Abbandonati, una figura piuttosto noto a Genova e in provincia, e Paolo Acquartini, di 55 anni, volontario in un'altra associazione animalista, abitante a Camogli. I proiettili hanno ferito anche la moglie di Castagnola e un vigile urbano del comune di Sori, che almeno secondo la prima ricostruzione stava passando di lì per caso. I due non sono in gravi condizioni, ora sono ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Dopo aver fatto fuoco contro le due guardie zoofile, Castagnola ha rivolto il fucile contro di sé e si è ucciso. In questo momento i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita, del nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale, stanno raccogliendo le testimonianze su quanto è accaduto stamane e sui retroscena che hanno portato al provvedimento dell'autorità giudiziaria che stamane le due guardie zoofile avrebbero dovuto eseguire. Per il momento da Genova è tutto. Simone, ti restituisco la linea. Grazie dunque Andrea, grazie ad Andrea Ferro. Passiamo alla politica. Si era parlato ieri della possibilità di un incontro tra Denis Verdini e Gianfranco Fini per cercare di trovare una mediazione tra Fini e Berlusconi. Ebbene, a quanto pare questo incontro è saltato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, Silvio Berlusconi è disposto a mettere una pietra sul passato, Gianfranco Fini ancora no, continuano le divergenze nel Popolo della Libertà tra la minoranza finiana e la maggioranza berlusconiana. Il premier Berlusconi riceve stamattina i coordinatori del PDL a Palazzo Grazioli in un nuovo vertice dopo quello di ieri sera, tra i quali Denis Verdini, mentre il presidente della Camera smentisce un possibile incontro proprio con Verdini oggi o nei prossimi giorni. La replica di Fini segue alcune indiscrezioni su un possibile colloquio, magari a Montecitorio, insieme al capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto. Silvio Berlusconi quindi vorrebbe cambiare pagina, il premier vorrebbe mettere una pietra sopra al passato e risolvere le divergenze con la minoranza, ma ancora però non c'è nessun passo concreto verso Fini. Per Berlusconi poi, prima della direzione nazionale e lo scontro aperto con il presidente della Camera, l'ufficio di presidenza del partito si era riunito periodicamente, ma né la Russa né gli altri ex DN avevano mai tirato fuori i problemi segnalati da Fini, che Berlusconi comunque giudica assolutamente secondari. Sul caso interviene Ignazio La Russa: spero che tra Berlusconi e Fini torni la concordia. E alla smentita di Fini replica caldo Verdini: dobbiamo aspettare. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Ora una vicenda che sta incrociando politica e giustizia da qualche giorno: l'inchiesta sugli appalti per G8 e grandi eventi. Dovrebbe arrivare entro venerdì la decisione del Tribunale del Riesame di Perugia sulla competenza territoriale. Intanto dalle carte dell'indagine spunta un'altra compravendita sospetta che coinvolge un alto funzionario del Ministero delle Infrastrutture. Un appartamento di 5 camere in via Gianturco a Roma, a due passi da Piazzale Flaminio, comprato nel 2004 per soli 390.000 euro dal genero di Ercole Incalza. Attuale capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture, all'epoca dei fatti consulente di Pietro Lunardi. È la nuova compravendita sulla quale puntano il dito i magistrati di Perugia che indagano sugli appalti per G8 e grandi eventi. Secondo i PM l'appartamento sarebbe stato pagato in parte con i fondi neri di Diego Anemone. Assegni circolari per oltre 520.000 euro consegnati al venditore dall'architetto Angelo Zampolini, l'uomo di fiducia del costruttore, che ha iniziato a collaborare con i magistrati fornendo la mappa degli spostamenti di denaro proveniente da una trentina di conti correnti. Mio padre non c'entra, quella casa l'ha pagata solo mio marito, fa sapere la figlia di Incalza. L'atto di compravendita è stato redatto dal notaio Gianluca Napoleone il 7 luglio 2004. Il giorno dopo, il rogito firmato dall'ex ministro Scajola per l'appartamento vicino al Colosseo. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di politica italiana, parliamo di politica britannica. Adesso si procede nella formazione del nuovo governo. Gli aggiornamenti. Nick Clegg and I, David Cameron ha rotto con 13 anni di New Labour. Ha formato un governo di coalizione, come non si vedevano dai tempi di Churchill nella Seconda Guerra Mondiale, e per la prima volta ha un vicepremier che si chiama Nick Clegg ed è un liberal democratico. Questa mattina Cameron ha aperto la porta nera del 10 di Downing Street per accogliere Clegg. I due si sono stretti la mano, sorridenti per i fotografi, botte sulle spalle, prima di cominciare il loro primo giorno di lavoro. I Lib Dem avranno 20 incarichi di governo e 4 ministri, tra cui Vince Cable, l'ex portavoce all'economia che andrà a banche e imprese, e Danny Alexander, ex capo dello staff di Clegg, ora ministro per la Scozia. Conservatori saranno il cancelliere George Osborne ed il ministro degli esteri William Hague, la vecchia volpe del partito. Mentre la squadra prende forma, le priorità sono già state minuziosamente trattate. Un taglio della spesa di 7 miliardi di euro quest'anno, una finanziaria d'emergenza entro 50 giorni e per ora niente adesioni all'euro, come proporrebbe Clegg, che in cambio ha avuto il referendum sul sistema proporzionale. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. E ora il Giro d'Italia, siamo in chiusura del giornale radio, Giro d'Italia che arriva appunto in Italia. Monoscocche in carbonio, leggere, resistenti, penetranti e spaziali, sono i bolidi su due ruote, autentici gioielli per gli amanti delle biciclette più evolute, ricercate dal valore di 15.000 euro per ogni attrezzo. Oggi al Giro d'Italia, che presenta la quarta tappa, vanno in scena le biciclette che sembrano bolidi di Formula 1. Corrono squadre di 33 km su una strada dritta dritta che sale però gradualmente. Una prova per specialisti del cronometro, per team che hanno confidenza con l'esercizio sul filo dei 60 km orari. La prima squadra a partire da Savigliano verso Cuneo, dove si concluderà la gara, sarà la francese Cofidis alle 14.50. A chiudere alle 16.35 la Astana della maglia rosa Vinokurov. Favorito al successo finale il Team Sky di James Murdoch, che dovrà fare i conti con l'americana Garmin di David Miller, che questa sera potrebbe essere la nuova maglia rosa. Cercheranno di inserirsi in questa sfida la Liquigas di Ivan Bass e Vincenzo Nibali. Rischiano di perdere il treno e altri secondi preziosi Evans e Sastre. È una sfida sul filo dei 60 all'ora, ma anche dei minuti. Per Augusto Stahl, GR24, Sole 24 Ore, Cuneo. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchesi e Maria Piera Ceci, con in regia Carmelo Lauricella. Il prossimo giornale radio è alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.